l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e riconosce e garantisce tutti i diritti dell'uomo. Il popolo è sovrano, ha dignità sociale. Benvenuti in un paese che racconta puttanate. L'Italia era repubblica, a cambiarla la P2, governata da massoni, apprendisti, muratori. L'Italia quella pudica che dall'82 sviluppa anche milioni per versargli a Berlusconi. Ed io che sto andando dietro in quest'Italia di papponi, dove più che giorni passano più aumentano i problemi. Paese dove truffano di santi e di cristiani, cerco di salvarmi il culo con le mani sui coglioni. Italia dei valori, degli appalti magna magna, Rine, Casalesi, Provenzane dell'Andrangheta, corone e cocaina, li scuppina la mania e chi va in chiesa la domenica. Ma il lunedì bestemmia, dai VIP all'impiegato, alle morti sul lavoro, dalle puttane in strada che poi pagano col culo. Da noi che siamo qua e che ci chiamano italiani, benvenuti nel paese dei balocchi e degli infami. Per quello che ci rubano e dopo come chiedono, per quello che ci prendono, per come te la spiegano. Ci si vedrà quando si dovrà votare, nella cabina io non metto quella X. Per quello che ci rubano e dopo come chiedono, per quello che ci prendono, per come te la spiegano. Ci si vedrà quando si dovrà votare, nella cabina io non metto quella X. Ogni promessa è stata infranta, fuck off con il vento a sfavore, ti si rovescia la barca. Perché è questo che succede a chi si vende la mamma, ma degli altri è quello che succede in Italia. La mala negli appalti, ti fottono i risparmi, tu lavori, si arricchiscono gli altri. Gli altri diventa un'ossessione per te, ma per gli altri sei uno dei tanti senza valore, come una miniera esaurita, un parassita che vive in funzione di un'altra vita. Questo è l'incubo, la libertà sta in un vicolo cieco. Ogni giorno è uno stimolo in meno, le facce che incroci qua dicono il vero, come le nostre voci su un problema serio. Il siero del veleno che inietti è la base, da dove trasmetti è solo un monopolio in mano agli addetti. Non cambi il risultato se non cambi gli addendi, è matematica applicata alla vita che prendi, quella che ti è data, non quella che vorresti. Per quello che ci rubano e dopo come chiedono, per quello che ci prendono, per come te la spiegano. Ci si vedrà quando si dovrà votare, nella cabina io non metto quella X. Per quello che ci rubano e dopo come chiedono, per quello che ci prendono, per come te la spiegano. Ci si vedrà quando si dovrà votare, nella cabina io non metto quella X.